piangi per niente, mi guasti le sere inutilmente. Allora è inutile, allora è inutile, diventa impossibile il nostro amor. A che serve questa luna, se poi piange non mi baci? Non farla stupida, non farla stupida, io voglio bene a te. Per niente, mi guasti le sere inutilmente. Allora è inutile, allora è inutile, diventa impossibile il nostro amor. Non farla stupida, non farla stupida, io voglio bene a te. Tu piangi per niente, mi guasti le sere inutilmente. Allora è inutile, allora è inutile, diventa impossibile il nostro amor. Allora è inutile, allora è inutile, diventa impossibile il nostro amore.